viene a cena. Take a little, di Valentina Furlanetto. That's the glory of da Valentina Furlanetto. Ancora una volta questa puntata di Indovina chi viene a cena, la trasmissione di Radio 24 che si occupa di migrazione, cultura, cucina e identità. Parliamo ogni volta di una comunità straniera in Italia, di italiani che hanno radici altrove, e in questa puntata in particolare parleremo della comunità cinese, una delle più importanti nel nostro paese, e in particolare del Capodanno cinese. Diamo il benvenuto al nostro ospite che è In Chai, presidente nazionale di Associna per quanto riguarda la cultura, insegnante di cinese in Italia e presidente del Centro Italo-Cinese di Ferrara. Come ben sapete, il calendario cinese non è quello solare ma è quello lunare, quindi non coincide assolutamente con il Capodanno occidentale e cambia come quest'anno, che sarà l'anno della scimmia, che cadrà l'8 di febbraio. Quindi c'è un po' di tempo per prepararlo. Ed è sì, una... anche se dopo un Capodanno si comincia già a preparare per quello successivo. Dico. E questo rende già l'idea dell'importanza del Capodanno nella vostra comunità. Certo, il Capodanno per i cinesi è una festività molto importante, ma è anche caratterizzato, diciamo, da una serie di eventi, come ben saprai, la sfilata del dragone, anche dei leoni, cioè si augura un anno prosperoso sia sul piano del lavoro, sulla salute, anche sul piano scolastico per gli studenti. Cosa vuol dire l'anno della scimmia? L'anno della scimmia, diciamo che la scimmia di per sé, da quello che mi raccontavano i miei nonni al sud della Cina, una scimmia da sola non porta gran prosperità, ma se sono tre scimmie messe insieme, certamente il cibo non mancherà di bocca. Questo mi raccontavano i miei nonni. Comunque la Cina, e comunque durante l'anno, il Capodanno, si dà sempre il benvenuto a qualunque segno zodiacale che arriva. Come ben saprà, noi abbiamo 12 segni come quelli occidentali, ma vengono classificati per anni e non per mesi. La festività del Capodanno poi dura non una notte come accade per i paesi occidentali, ma addirittura 15 giorni. Si conclude, certo, con questa festa delle lanterne. Giustissimo, i 15 giorni, ci sono anche dei tabù, anche delle leggende. Ad esempio? Ad esempio, uno potrebbe anche sembrare strano, che dal primo al quindicesimo giorno del primo mese una delle credenze, diciamo che la maggior parte sono rimaste nelle campagne, il pianto di un bambino porta sfortuna, quindi i bambini fanno il possibile, i genitori fanno il possibile per mantenere i figli contenti e anche per soddisfare ogni loro desiderio con i giocattoli. La tradizione vuole poi che ci si scambi dei doni, non soltanto ai bambini ma anche agli adulti, nei pacchetti rossi, no? Certo, i hongbao, di solito hongbao è il significato, è il, diciamo, il regalo principale di questa borsa rossa, che il rosso, come ben saprà, è simbolo di prosperità, di amore. Il rosso rappresenta anche dalla leggenda del Nien, che è un mostro che esce solo una volta all'anno, il giorno di Capodanno, per cibarsi anche di esseri umani. Il rosso nella leggenda è anche un colore per spaventare gli spiriti malvagi. Il rosso è anche il dragone, rosso, giallo, nero, il dragone che viene portato dorato durante la parata. Ecco, quando culminano i festeggiamenti in questi 15 giorni? Nei primi giorni? Subito il primo giorno cominciano le sfilate del dragone in tutta la città, proprio nelle vie principali, in modo che possa arrivare la fortuna, che si diffonda poi anche nel resto della città, nelle campagne. Diciamo che il dragone è l'animale sacro, non è, cioè, possiamo fare un confronto tra il drago italiano e il drago cinese. Il drago italiano, quello di San Giorgio, è visto un drago malvagio, il male, dove San Giorgio uccide il drago. Invece in Cina il drago è uno dei protettori dei santi, è una divinità, è un animale divino, che poi sostanzialmente è anche persino d'acqua, non un drago che vediamo che sputa fuoco, e un po' anche i guardiani del cielo, come vedono i cinesi. Non possiamo dimenticare i banchetti propiziatori. Il cenone di Capodanno è molto ampio, so, ma che tipo di piatti comprende? Ci sono dei piatti particolari serviti a Capodanno? Certo, il Capodanno è un momento di ritrovo, quindi si mangia e si beve a sazietà, proprio per dire che l'anno a venire speriamo che non ci mancherà mai il cibo a tavola. È anche un momento di scambio. E soprattutto in Cina funziona anche tutto il ritrovo dei parenti, anche parenti che non si vedono da anni, tutto l'anno, in quanto lavorano lontano da casa. E i piatti un po' tipici, diciamo, del Capodanno, poi dipende molto anche da zona a zona, le dico subito che tra sud e nord ci sono molte differenze, la Cina è grande. Uno dei piatti che, diciamo, può essere comune è il pesce, perché c'è anche un detto che si dice nien nien yo yi, che ogni anno che tu abbia più risparmio, che ogni anno ti regali più di quanto tu possa desiderare. Questo è un detto che è abbastanza famoso, che viene anche tramandato spesso tra le generazioni. Quindi insomma il pesce è un po' le lenticchie occidentali o italiane. Per... Sì, ecco, proprio questo. Ma di buon auspicio. Il pesce è visto come un simbolo, diciamo, benefico, in quanto la sua pronuncia del carattere yu ha la stessa pronuncia del significato risparmiare. Poi ci sono anche i famosissimi ravioli, i chaozi sono, poi dipende da zona a zona, però sono un piatto, diciamo, tradizionale della cucina cinese. Un po' quando io insegno, visto che abito a Ferrara, che sono famosi per i cappelletti, e mi viene questo collegamento, i ravioli cinesi a Capodanno e i cappelletti ferraresi sempre a Natale. Dare spettacolo quei giorni lì e proprio sta nel DNA della comunità cinese, non solo a Milano, a Paolo Sarti, ma anche a Prato, che diciamo che è la Chinatown d'Italia, poi anche a Firenze, a Roma, che si celebra, dove ci sono poi la maggior concentrazione della comunità cinese. E uno spettacolo che si organizza già da, come ben sa, da molto tempo prima, perché ci vogliono persone che sappiano anche muovere bene il drago. E questo evento delle manifestazioni che pian pianino vanno a incrementare anche nelle città che non sono città metropolitane, cominciano a ricorrere al dragone, la sfilata che simboleggia integrazione, anche simboleggia anche una voglia di cooperazione tra le culture, soprattutto quello italiano e quello cinese, come nel campo anche del lavoro, i rapporti tra la Cina e l'Italia si intensificano e si rafforzano sempre di più grazie anche alle associazioni italo-cinesi. Un'ultima curiosità, cosa fanno i cinesi che abitano in Italia il giorno di Capodanno, il primo dell'anno, il primo di gennaio, tra il 31 e l'1, insomma, quando noi festeggiamo il nostro Capodanno? E anche i cinesi amano festeggiare con gli italiani, che poi sono sempre amici, e per fortuna tra queste due comunità c'è un ottimo feeling e un'ottima reciprocità. Quindi insomma lenticchie e spumante anche per voi? Sì, noi quando si tratta di mangiare e bere siamo sempre presenti come tutte le popolazioni. Grazie per essere stato con noi a Qin Chai, che ci ha aiutato a capire qualcosa di più del Capodanno cinese. Buona giornata, buon Capodanno, tanti auguri. Grazie anche a voi altrettanto. Ci fermiamo brevemente, torniamo a parlare del Capodanno cinese, delle tradizioni dei cinesi in Italia e di come possiamo partecipare anche noi a questa grande festa di questa importante comunità in Italia tra pochissimo. Digital Radio Flash. Flash. Ciao, sono Emma. Ho sentito dire che la Digital Radio è multimediale. È vero? Certo, con le trasmissioni in digitale la radio acquista una nuova dimensione. Oltre all'audio in qualità perfetta, puoi ricevere sulla tua radio immagini, testi e video. Lo sapevi? E allora muoviti. Muoviti a scoprire di più su digitalradio.it. Digital Radio. Il suono perfetto. Anche Radio 24 è in Digital Radio. You've got to give a little. Indovina chi viene a cena. In questa puntata abbiamo anche un altro ospite, benvenuto a Shi Yang Shi. Benvenuto. Ciao, tu sei italo-cinese, sei arrivato quando eri piccolo con i tuoi genitori, giusto? Esattamente, sono arrivato a 11 anni, siamo immigrati io e mia mamma nel 90. Quindi sei un italiano, perché ormai sei italiano dal 2006 se non sbaglio. Brava! Che ha una storia simile a tanti ragazzi italo-cinesi che vivono in questo paese. Hai studiato alla Bocconi, hai studiato poi arte drammatica. Sei un attore, un interprete, sei stato anche inviato delle Iene e hai un tuo spettacolo nel quale racconti un po' la tua storia. Si chiama Tom Meng, Porta di Bronzo, Stesso Sogno. In questo spettacolo racconti la tua vita, le tue esperienze, ovviamente cercando di, come sempre si fa, di trarre dal particolare una storia universale che può valere per un po' tutta la comunità cinese, perché la tua è la storia anche di un clandestino, giusto? Sì, di un banana, giallo fuori e bianco dentro, così veniamo chiamati, sai? Cinesi cresciuti all'estero, in Occidente. Così venite chiamati in patria, in Cina? Sì, con un pizzico di disprezzo, devo dire, perché io sono un italiano d'origine cinese per voi, un cinese d'Italia per loro, e quindi per noi che siamo in mezzo è molto difficile capire chi siamo. Il mio spettacolo infatti parte da, è uno spettacolo intanto di Cristina Pezzoli, la mia regista e coautrice del testo, è mio, racconto la storia di sei miei antenati, che a partire da fine 1800, dalla Trisavola che vendeva i spaghetti di soia fino a Hong Kong, la mia bisnonna che aveva piedi piccoli perché erano spaccati da bambina a 6-7 anni, ma perché era un valore. Così le donne sono considerate belle. Oppure la storia di mio bisnonno, un comunista, che lottava per la libertà. Tutta la prima parte è dedicata a uno spaccato della Cina che ti appartiene come storia, ma che non ci appartiene come Italia. La seconda parte invece è dedicata di più alla tua storia. Sì, tu sei arrivato in Italia come? Da clandestino, con mia mamma sul treno da Francoforte a Milano. Sei arrivato con passaporti falsi, giusto, in Italia? Un traghettatore che diceva che noi dovevamo essere giapponesi, non dovevamo fare niente. Di notte mi ricordo che avevo paura, quando siamo fermati al passo, non mi ricordo quale fosse tra Francoforte e Milano, e insomma sono arrivati i controlli e hanno finto che eravamo giapponesi, siamo entrati. Hai dovuto iniziare la scuola senza capire e parlare una parola di italiano. È stata appunto una riprogrammazione culturale. Comincio a fare poi tra la mia vita italiana, compreso il lavapiatti, a 12 anni. L'Italia è stata la fine dell'infanzia e anche l'adolescenza, che è stata un po' traumatica. Comunque l'Italia vuol dire la fine di un sogno, perché i miei sono venuti in Italia che sognavano la libertà, sognavano l'arricchimento, non stavano male. Noi siamo un po' atipici, non siamo come gli operai o come molti cinesi di Wenzhou, che sono venuti anche per cercare proprio concretamente dalla campagna una vita migliore. Come diceva la Cristina mentre leggeva le mie storie, andavo con mia madre sì alle 2 di notte a fare la fila qua a Milano in questura per avere permesso di soggiorno, ma ci andavamo in taxi, per dire che siamo parte di quella classe media che un po' sfortunatamente, venendo in Italia, abbiamo trovato un po' il fallimento del sogno, i miei genitori, che erano un manager e un medico. Io invece, piano piano nel tempo, anche facendo la vitaccia, tipo 7 anni da quando avevo 16 anni per 7 anni a Cesenatico, anzi a Villa Marina, frazione di Cesenatico, che nella storia però racconto come l'azienda familiare premiata ditta Shi and Shi. Perché tu e tuo padre lavoravate assieme. Eh sì, perché a questo punto lui è venuto in Italia perché sennò la famiglia si spaccava, e dopo 4 anni che io e mia mamma eravamo soli, in qualche modo mantenuti da lui, ma i soldi non erano abbastanza, e a quel punto viene con un gruzzoletto e allora siamo costretti a andare a vendere per sbarcare lunario. Che no? Cosa vendevate? Vendevamo basum tigre, papere alle ginze. E poi facevate anche i massaggiatori, giusto? Esatto. Tu a un certo punto hai capito che l'istruzione, la scuola, potevano essere un punto di svolta per te. Io ero primo della classe in Cina, primo dell'annata, già in quinta elementare. Era un testone, cioè il Telefunken come testa. Però in Italia non mi interessava nel primo anno. Poi ho scoperto che la mia famiglia era decaduta, nel senso che non potevamo più permetterci certe cose, dormivamo in cucina io, mia mamma, e quindi io dovevo studiare per non fare lavapiatti, come ho fatto a 12 anni a Ciro Marina. Dovevo studiare per riscattare la famiglia, come facevano, credo, proprio il mio bar qua a fianco, da Beppe. Lui è qua del nord e comunque veniva a Milano. Lui ha l'età di mio papà, sa, 64, circa 64 come anni. Come facevano quindi gli italiani un tempo? Esattamente, siamo noi esattamente, secondo me, i terroni di oggi, solo che non veniamo più dal sud solamente, no? Veniamo dal sud del mondo. Poi la Cina è tutto un caso particolare, perché è sud, ma contemporaneamente è anche nord. Cosa ti rimane della Cina? Cosa ricordi? La nostra trasmissione parla della migrazione, dell'identità delle persone anche attraverso i ricordi dei profumi, dei gusti, dei piatti. I ravioli cinesi, adesso mi fai commuovere, perché la cosa che più mi manca della Cina è i ravioli di mia nonna a Capodanno, perché quando io ero bambino, fino agli 11 anni, che l'infanzia era molto bella, tutta la famiglia allargata, la famiglia di mio papà, quindi noi 3 più la famiglia di sua sorella, loro 4 più mia nonna, ci riunivamo da lei a cucinare tutti insieme i ravioli, quindi ognuno aveva il suo ruolo. Il mio ruolo era quello di schiacciare le chiamate rondelle, ed era un freddo cane. Allora mi ricordo che anche se a Jinan, da dove vengo, nord della Cina, penisola di Shandong, c'era neve, no? Faceva freddo, andavamo in bicicletta, con i doppi pantaloni. Io cadevo perché c'era la neve e per la via della città era tutto pieno di solchi delle altre biciclette. Io cadevo, ma ero felice di cadere, mi alzavo e andavo avanti ancora con la bicicletta. Ecco, quella nostalgia della Cina di una volta, che eravamo più poveri, non eravamo padroni del mondo, eravamo più autentici. Oggi c'è infatti una certa nostalgia anche da molti, non da soltanto da parte di cinesi di overseas come noi, di una Cina di una volta, come il famoso si stava peggio quando si mi stai dicendo che non ritrovi più questa Cina quando vai nel tuo paese di origine? Io ho recitato grazie all'ambasciatrice germana Rivi Bradanini al Teatro 77 ad aprile, la prima volta che in Cina mi sono sentito molto estraneo. Eravamo a fare questo spettacolo, ce l'hanno censurato, ma non voglio entrare nei particolari, e comunque cercavo il mio cibo preferito, il mio legame è un po' legato come Kung Fu Panda al cibo. Cercavo il Tianbin Guoz, che è una specie di crepe fatta per strada su delle piastre rotonde, bollenti, con crepe di uova, no? Con delle robe che un italiano non mangerebbe mai la mattina. Io lo mangio da cinese, pieno di uova, di robe fritte. Non era più buono. Io non riesco a fare pace con questa Cina dalla faccia rifatta come una matrigna, però sono convinto che nelle mie radici c'è un'essenza cinese che è potente e sono sicuro che questo tipo di economia che sta vivendo il mio paese d'origine, io lo spero, magari anche grazie all'Italia, a tutti i progetti sull'ambiente ed eccetera, anche questo, sai, tu sei italiana e in Cina vieni vista con pregiudizio positivo e questa roba purtroppo non ce ne rendiamo conto abbastanza secondo me, ma secondo me è una speranza anche per la Cina, se lo aiuta a tenere i redini su questo dragone, qualunque sia il segno zodiacale del capitalismo moderno, a andare avanti, ad evolversi e ritrovare le cose più belle. Spettacolo, poi c'è anche l'italiano fondamentalista alla fine che dice ci avete rovinato la città, e gli do ragione, ma c'è anche una parte positiva. Gli dai ragione? Devo dare ragione, perché purtroppo noi che siamo in mezzo diamo ragione a entrambe le parti. Se il fondamentalista italiano dice voi cinesi pensate solo ai soldi, non pagate le tasse, no? Tutte queste cose. È vero? Io lo devo tradurre all'altra parte. Perlomeno per lui è vero. Se per lui è vero, perché c'è una parte di verità. Però l'altro cinese dice, noi abbiamo imparato a non rispettare le regole da voi italiani, dai vostri commercialisti che sono italiani, e poi neanche voi le pagate le tasse, dai. E io gli devo dare ragione, perché comunque c'è una parte che è vero. Noi siamo fatti, secondo me, per abbracciare entrambe i popoli, non escludendo ovviamente i musulmani, gli ebrei e tutti quanti altri, cioè per tutte le etnie che sono di mezzo. In questo momento c'è un dibattito forte, dopo anche gli ennesimi attentati, eccetera, su chi si è, perché poi le seconde generazioni vissute in Occidente hanno anche il problema di chi si è, magari si è emarginato, si è cresciuto nell'immaginazione. Perché non si è ancora italiani e non si è più profughi o migranti o esatto. Migranti economici. Mm. Però potresti essere qualche fondamentalista, perché quello ti dà un'identità forte, ti dà la paura, ti scatena un odio, ti scatena un potere che ti guida dalla pancia, perché è figo, perché ti dà... Tu stai dicendo che le seconde generazioni, per cercare un'identità, visto che sono nel guado fra due identità, certe volte sì. Cercano questa identità nel fondamentalismo? Secondo me sono facili vittime del fondamentalismo, però secondo me le seconde generazioni hanno anche una responsabilità, non possiamo solo essere vittime di chi vuole tirare da una parte o dall'altra. Io ho 37 anni nel nuovo anno, però sono sicuro che anche chi molto è giovane, può sentirsi la spina dorsale dritta e dire no, io non sono né da una parte né dall'altra, sono io, sono un essere umano e cerco di ragionare con la mia testa da che parte stare e chi sono. Questa è una domanda importante. Buon 2016, come si dice in cinese? Xin Yan Kuai Le. Grazie, buon anno a Xi Yang Xi. E magari corriamo insieme che il 7 febbraio a Milano facciamo la corsa tutti insieme con il Run on the Road. E invece a Prato il 31 gennaio le pulizie, il 7 febbraio, primo dell'anno, facciamo il giro della città e poi il 21 febbraio facciamo la festa con tutti i mercatini in via Pistoiese. Grazie, grazie per essere stato con noi. Grazie a te per l'intervista. E buon anno. Grazie. Ravioli cinesi di Capodanno al vapore. Jiao Si. Ingredienti per 20 ravioli: 250 g di farina, 150 ml di acqua, sale quanto basta. Ingredienti per il ripieno: 150 g di carne di maiale macinata, 50 g di gamberi sgusciati, una carota, cavolo cinese, uno scalogno, zenzero fresco, erba cipollina, sale e salsa di soia quanto basta. Per preparare i ravioli cinesi al vapore occorre iniziare preparando la pasta per i ravioli. Disponete la farina a fontana in una ciotola e aggiungete un pizzico di sale. Incorporate l'acqua poco a poco. Mettete l'impasto su una spianatoia infarinata e iniziate a lavorarlo con le mani finché sarà compatto e sodo. Avvolgetelo con della pellicola e lasciatelo riposare un'ora in un luogo fresco e asciutto. Nel frattempo, dedicatevi alla preparazione del ripieno. Tritate finemente il cavolo cinese che avrete precedentemente lavato. Tritate la carota e lo scalugno. Sminuzzate anche i gamberetti freschi e aggiungeteli in una ciotola insieme al macinato di maiale. Incorporate poi il cavolo cinese, la carota e lo scalugno. Grattugiatevi sopra lo zenzero fresco. Condite con 2 cucchiaie di salsa di soia e aggiungete dell'erba cipollina tritata. Amalgamate bene il tutto e lasciate riposare il ripieno mezz'ora in frigorifero affinché tutti gli ingredienti si insaporiscano. Trascorso il tempo di riposo necessario alla pasta, stendetela su una spianatoia infarinata. Ricavatevi dei dischi di circa 7 cm, aiutandovi con un tagliapasta o con un bicchiere. Col mattarello, spianate i dischi di pasta ottenuti per renderli ancora più fini. Disponete quindi un cucchiaio abbondante di ripieno al centro di ogni raviolo, inumidite il bordo dei dischi con dell'acqua e chiudete il raviolo a mezzaluna premendo sui bordi per far aderire la pasta. A questo punto prendete il cestelletto di bambù per la cottura a vapore in un wok riempito con circa 1,5 cm d'acqua in ebollizione, foderate il fondo con delle foglie di cavolo e ponetevi i ravioli, facendo attenzione che non si tocchino tra loro. Chiudete il coperchio del cestello e cuocete per circa 15 minuti, fino a quando la pasta dei ravioli inizierà a diventare piuttosto trasparente. Prima di servire i ravioli cinesi al vapore, irrorateli con della salsa di soia. E per questa puntata di Indovina chi viene a cena speciale dedicata al Capodanno cinese è tutto. Io vi rinnovo l'appuntamento con le migrazioni, l'identità e la cucina e Indovina chi viene a cena ogni sabato alle 23. Da Valentina Furlanetto è tutto. L'augurio di un buon 2016, che abbiate le radici in Italia o altrove. You've got to give a little. That's the glory.